radio, chi vuole? Io appoggio, appoggio, grazie a Dio. Non vado a lavorare, anche se non è malato, però io ci sono. E vabbè, perché malato, perché malato. Io ho una penna, una SB, una SB, e c'è una doppia. E vabbè, questa qua, c'è una SB. L'SB è CVD Confess, cioè che c'ha, non so, non qual è. No, ce l'ha le balle laterali. Ma questo c'è lui, no, ho lavorato questo. Ah, guappa guappa. Ma ci sono quelli anche della Paglietti, mi sembra, 40 canali con le balle laterali. Adesso non me lo ricordo che ha parlato c'è da Roberto, comunque ce ne sono tanti modelli che hanno le bande laterali. Io mi ricordo tanti anni fa che la Tex, la Fayette, che aveva 40 canali, poi c'aveva le bande laterali. Per vedere un po' la situazione. Oh, magari cavolo, prende per esecutivi di questo, mamma mia. Sì, c'è una stazione base, anche se non è malato, però tutti li pigliano a me. Perché io sono attaccato anche quando entro nel 38, addirittura. Ma poi quando sei in un altro canale, l'altro giorno mi sembra che ero nel 38 provando e ti sentivo. Capito, non è... gli apparecchi omologati è ancora peggio, capito? Perché non ti fare illusioni. Se la bella laterale, ma la sono interessata quando c'è propagazione. No, ma io con questo non ti sei, mi rimate i due canali tu. Ma se per un altro mi distruggi anche tu, Ma tutti i canali ti sento, in tutti. Ma ecco, poi la parente che purtroppo fa così. Quasi tutti ci abbiamo il microfono amplificato, così che vedi bene che è un po' un camotto là. Manda più scuri è per quello. Manda più scuri è un casino. No, guarda qua il Milan, che prende un bel, ma un bel. Parasci di Biglia. E cappa cappa. E ripeto io con questo qui. Con tutto che non è omologato, che è già un po' più serio, diciamo così, come apparato, però diciamo che i colpi li pigliamo lo stesso. Non dico a Carasci, ma a Montoni. L'unico mi sbattono un bel, non mi come Adriano. Franco non più di stato, Adriano me lo sbattono un bel. Più uno scratch, a metà e non intendo più. Cappa cappa. Ma anche io qui, perché lo squarcio non lo chiudo mai, ma se chiudo lo squarcio, tutti quelli mi sbattono, ok, non li sento, capito? Però annullo anche quelli piccoli. Non so, ma guarda, io dico, anche gli accanto prendono colpi, dici no, anche per noi. E quelli lì prendono colpi, sono da loro, non se ne accorgono, perché uno dall'altro è lontano. E molte volte si trovano parlando nello stesso canale, così che non se ne accorgono, però cioè nello stesso canale, alla stessa frequenza, e non se ne accorgono, ma io sono sicuro che se dovesse parlare Claudio per dire, metti quello che c'è sopra di te, ancora più su però, andando verso Natalino. Io sono sicuro che se capitano anche in due canali di me si sblatteranno di sicuro. Non so, ma già li prendono Mario. Sono più filtrati, hanno più cose, però li prendono tranquillamente. Quelli sono più, diciamo, più selettivi, sono più... Non ce l'è là, diciamo, un malacchino. Poi, se si usa come tutto un microfono amplificato, ma anche uno normale, io non ne prendo mai colpi. Soprattutto prendo abbattimenti, un bel però. Se tu mai fai mai su 20, che ha solo quel remio, per esempio, no, a 3. Tu vai su 20, scatti il portante, io rimango qua, ma io vado su 5 o 4. Se tu ti rimani qua e mi vado su 40, se tu metti Fox sul 10, mi annulli il, praticamente la, il QRM. Capo, il positivo. Però se non metti nulla il QRM è già bene. Ma poi quando io parlo, che se tu magari c'hai uno che, diciamo, esce tipo Luca, Luca Plin, perché esce basso, te lo annulla anche a lui. No, cartellino lo danno. Se non vanno, non l'hai visto come sta? È nuovo nuovo, è come che tu lo prendi dalla scatola, capito? Allora lo dico. E poi non è toccato a nessuno questo. Questo non c'ha né LC, aperta nulla, è normale come lo danno dalla fabbrica. Capito là. È normale, è nuovo nuovo questo apparecchio. Io avevo fatto un affare e ci ho rimesso parecchi soldi. Ecco perché, anche perché non lo meno di quello, perché il prezzo suo vale di più. Vale, anzi, mi sono dimenticato a dirlo a un amico che lui lo voleva, lui ce l'aveva già quello lì, quindi sa come funziona. Capito? Come l'ho sentito che ce l'avevo io, subito me lo voleva comprare, sono stato anche insieme a non darglielo. Perché adesso mi serve roba e non c'ho soldi, e mi serviva soltanto lì per comprarmi un'altra cosa, la pizza. Grazie. Avanti. Roberto, buonasera. Sono a Taluno, mi sembra Luca, tutto Mario, tutto Mario. Questo sta a uscire. Stai innescando, Roberto. Tutto a fischi, stai uscendo. Dai, vi lascio al vostro questo, vi ascolto un attimo, vai. Sto facendo questo. Ma sai cosa sta vivendo? È un president. Gaffa. C'è Mario, mi sembra. Vabbè, stai innescando, sì, tutto a fischio e a pernacchie. Aspetta che cambio il microfono. Papà. E Mario, adesso com'è? Adesso va bene. Sono con la terra piccolina, sto stando con la multibanda. Come arrivo a te adesso? Sì, ci sono dei rischi brutti. Bene, cosa intendi? Dammi un riferimento. Ma saltavo a Radio 10 o a Radio 5. Aspetta, per te dai Luca? Vai. 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50, 100. Prova 10. Con la grande invece arrivo a 9,20 da te, a 9,15. Poi 9,20, sì. Canali. L'Argus quanti canali c'ha? L'Argus è un poi c'è il pezzo di PA, e poi ce n'è un altro che però non so che cosa sia, non l'ho mai utilizzato, che poi, non lo so, basta che piglio un foglio, perché io ho anche un foglio di questo qui, vedo e mi dice tutto. Questo che ti ha detto questo paese è una stazione mobile, non è fissa. Come? quello degli scatti, esattini quello. Questo c'ha tante di quelle cose che se gli fai qualche modifica esce quanto è l'apparecchio radiomateriale di potenza, figura. Questo è normale, perché non l'ha toccato mai nessuno, ma se no è una belva, se l'aveva un amico mio ci fa una belva era, infatti lo voleva. Adesso lo telefono e glielo dico se se lo compra. Ma lo sai la bella? Io ne volevo 200 perché non volevo. Capisco, col microfono da tavolo. Tappa, no, come gli apparecchi sono fatti bene quindi. No, sto guardando, ma lo fa su internet, c'è questa moda adesso nuova di aumentare la modulazione, questo sistema americano che dice che è una cosa rivoluzionaria, infatti c'era un forum adesso, lo stavo leggendo, ma cose allucinanti che neanche ci immaginiamo. Sì, la moda americana, se magari l'americana di aumentare la modulazione, e gli mette un processore esterno, facciamo questo apparato che ce l'ha già, e quando attacchi quello è già come le 400 watt. E dice che c'è una radio allucinante, dice che i segnali di Santiago 3-4 arrivano una radio allucinante, dice a bomba, anche con segnali bassi. Comunque bisogna averli al lavoro quegli apparecchi lì, capito? Qualche giorno ti porto qui e ti faccio vedere al lavoro una cosa. Io dico che ti spaventi. Ma ne immagino, infatti tu che fai tutti i collegamenti, poi sicuramente sarai molto aggiornato. No, ti spaventi, sono con la potenza come escono, capitola, come ricevono e come escono, è tutta un'altra vacca, è un'altra cosa. Sì, se li vedi uscendo, una laterale ti spaventi, se li vedi lati che tolgono fuori, allora ti spaventi. Ma se mi sento lo trovato che ci sono questi manca anche americani e sono con pochino, ma tra i fuori di con lo spazzatino che neanche ci sogniamo. Perché c'hanno gli uri, con l'armadio, con gli uri, è logico che rompano. Aspetta, ti posso salutare da una persona. Ciao me. Cioè, non sarai chi tu che ho fatto da davanti, tu. Ci chiami via, ma non è tutta la corna. Non lo sai che è così. Scusa, sta lì, non capisco. più lungo per vedere se il segnale rimane stabile. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sono... Prova, 1, 2, 3, prova, va bene, com'è? La radio, forse per niente, non è un microfono serio, però, guardate che, com'è? Bappa, bappa, quindi va bene, tutto K, il segnale rimane fermo, è la radio 5, non è amplificata, non è niente, è una radio normale, va benissimo. Ok, riprendi Natalino, fai girare, scusate il break. Andrea, vorrei sapere che differenza c'è tra il President Jackson e un Galaxy. Cosa c'è? L'abisso. Lo so, no, volevo sapere se erano precisi oppure se c'era qualche differenza. Se tu mi dici così vuol dire già è vero. No, solo per il motivo che il presidente è presidente, il Galaxy è Intec, non puoi fare confronti. Già lo so che è una parecchia più seria, ma volevo sapere solo quello, due basta. Ma tu sei il Galaxy o il presidente? Ognuno ha le sue peculiarità, ognuno funziona dove deve funzionare bene. Sono due apparati diversi, di marche diverse e completamente diversi. Si possono fare i confronti. Si può fare il confronto tra un Kivu del Kivu, di Jesu, Jesu, Intec, Presidente. Però la Presidente Galaxy e Galaxy cos'è? Per fare solo quanti chilometri sono? Sono 150 chilometri, ci ricavi qui a Olbia, fai conto, ci metterà 3 ore. No, ci metto tra la Romania. Mi avete chiamato? Luca, ma come stai uscendo tu? No? Con cosa stai uscendo? Perché? Ecco, sei basso basso, state a competersi. Con un vasto sto uscendo, mezzo vasto. Ma con di poco o con avanzo qua? Con avanzo qua, di poco non si può più. C'è un bel vasto, anche di là lo hai diminuito. Sabu. €5 Ma quanto ancora? 60 l'ho pagata. 45 l'ho pagata. La palla è me l'ha avanzato in meno turbo. Luca, ho fatto con la palla con il Ricci Ferra. Vai. Uno, due, tre, prova. Sì, assicura la vista. Ma non ci doveva aspettare, Dovevi schiacciare e me l'hai buttato fuori quello che c'era in più dentro. Asciuga, non me l'ho fatto di scorte, quello che è buono straccio. E poi iniziamo a schiacciare e mollare, schiacciare e mollare. E poi lo attaccavi. Tutto quello che hai detto lo fa. Oh, bravo, bravo. Io ripeto, questo non andava. A tu mi hai detto che praticamente l'hanno messo pronto per i contatti. Tu dava. Si sta sopra il CRC. Sta sempre andando. Allora, andava in trasmissione questo già. Però quando non l'ha non si tocca nessuno, capito? Si trova a discutere con il CRC. Allora lo sta sempre andando. Perché il CRC risulta, capito? Risulta e se c'è qualche cosa lì sul punto di più. Infatti, già va bene. Già va bene, cava. Perché non posso fare? Luca, ciao passaggio. Uno, due, tre. La diagnosi dell'apparato, non è frega niente del microfono. fuori là? Sono io con presunta che sui di K. Ma non è il suo scelto, Mario. Ah, c'è un po' quel rumore che ho avuto al microfono sicuramente, però la modulazione sembra buona. Ma se sta a carichi, Mario, come fa a dire che sta facendo bene? Sembra buona, solamente che c'è quelle scariche che saranno dovute al microfono, non alla radio. Se sono queste le scariche c'è ragione di uso, Addirittura, no, la forza se non gli do un colpo non molla, non rilascio il PTT. Mi sta ascoltando in modulazione logicamente col monitor e il rumore di sento. Sì. Io non sto provando il microfono, Luca, sto provando l'apparato. Mi contento, a me non me la fatto niente. Deve essere contento il padrone dell'apparato. Scusa Adriano. No Maria, non è quella, quella roba, non è quello. Ma me sta facendo male, poi già dicono la modulazione è l'ultima, un per loro, e a me sarebbero malissimo, male, a me è bruttissima. Poi non so cosa dite Adria. La radio la sento che nasina e fa anche l'asca, no? Avanti, Roberto, tu hai chiamato. Sì, se vuoi un parere mio, la radio diciamo come tu su con nasina, però c'è un fruscio sotto, c'hai del fruscio sotto. Senza parlare si sente del fruscio, non è normale diciamo. Fruscio? Ma fruscio cosa intendi? Fruscio nel senso di guernime oppure questo? Questo rumore qua. Ah, dopo funziona tutto, funziona la M, il FM, capito? No, non è la serata che ti dà così. Allora, quello che perché praticamente la natura di questo è un cane. No, cioè, le lungo, le sono in sovrammodulazione. Un canale di che frequenza? Cioè, qua i 27 sono 10 kHz, un canale. Quale frequenza? Che conosce solo gli 11 decimetri. Un canale, ma un canale sono 10 kHz. Insomma, la traccia della fonte va fatta, non dico all'F, ma almeno a 10 Hz, no a 10 kHz. Conferma, più 60 fanno scala, in chiamato. Aspetta, vediamo un la stessa differenza. Guarda vedo un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qua segna 40, io ti dico cosa dicono. Ce ne sono, cioè, è digitale quello che può segnare, segnare 40 segna, è molto più basso del primo. Sono 20 dB diciamo, là. Sì, bisogna vedere però, questo è come il cambiato adesso, è 60 per inchiodato, c'è una 40 picchi negativi, ce ne va pure, questo magari più di 60, dovrei mettere un alternatore, ma non dobbiamo più nel alternatore. Oh, questo è una verticale, fatti già. Ma che cazzo, ma che vi sono messo io, ma ne vado a mangiare. Sì. Allora, ci sentiamo dopo, ciao Adriano, ciao Mario Manse, ciao Roberto Quadrato, Luca e tutti gli eventuali ascoltori, io faccio corretti, ci sentiamo dopo. Sono quelle, sono due. 2,65 per braccio, prima era 5,50 nel mare, o 5 metri, boh. No, 5,50. Mi devo guidare tanto la camiciuria. Ma dimmi una cosa, cos'è? Che registro quanto fa l'osario? No, capo di capo elettrico. Il braccio è capo elettrico, la discesa era di 58. E come fai a arrivare all'interessa di un tavolo? Si fa da casa, come mai lo comprava? Ho fatto il calcolo, no? E risulta quello. Il calcolo che ha fatto Franco era 5,50, siccome non andava bene perché era un'onda, adesso è mezz'onda, mezzo cavalzacchi adesso. Mi sembra proprio piccolino, secondo me, per i 27 almeno. Cosa? A mezz'onda te l'hanno fatta, l'ho fatto l'anno fa. Mezz'onda? A me sembra di là che calco, è troppo piccolo secondo me. Fammi un duro conto, Robert. Hanno fatto i conti, il calcolo di una calcolatrice. Poi non me ne ha fatti nulla, adesso faccio, un'altra prova, attacco un altro palo di antenna. Se va bene, le stazionali scende a 1-1, buono. Altrimenti bidio sul lampo. Ma sono come le matematiche, non c'è da sbagliare, non è che devi inventarlo. Infatti mi sembra troppo piccolo, però è 2,75, è troppo piccolo. A mezz'onda, è mezz'onda. 5,50, 5,50 è un'onda. Non cavalzacchi, non un'onda. Sì, la un'onda l'onda si calcola in metri, si fa in metri, non in megahertz. Non mi sono loro, ma no. In megahertz è con la lunghezza l'onda. Io lo so che usi pure, non lo so, chi da Adriano, chi da Claudio, non lo so, non mi diamelo, però so che usi e basta. Stavo sbagliando io, stai sbagliando tu. No, non lo so. Si fa la lunghezza d'onda per 0,95 diviso 2. Questo ti dà la lunghezza del dipolo totale. Poi stavo a fare mezza lunghezza d'onda, a seconda divisi. Ma come non sbaglio, Adriano, non lo so, chiediamo a lui, sei molto più... Diano ginecologo. Io facevo i dipoli chiusi, l'ho fatto io il dipolo chiuso per i 95 lei, l'avevo provato, e facevo i calcoli matematici e funzionava. Utilizzavo altri tipi di materiali, eccetera, eccetera, però le formule sono sempre uguali. Non capisco un tubo io, roba, non capisco un tubo. Io so che un dipolo con la 27 deve essere molto ma molto lungo. Dovrebbe essere almeno una ventina di metri, ma a occhio e croce, poi bisogna fare i calcoli giusti. Cappa, cappa, non conosco quella dietro, roba. Credimi, non conosco quella dietro. Io devo essere cose, non me ne intendo, perciò... Non so, bisogna chiedere a chi ne sa. Io non lo so. Sembra così, fai così. Ricco fa. Dico si fa, perché convive durante la fac. Vabbè, prendi la calcolatrice. Perché? Per fare le misure. Guarda, la curva, sì, mi sembra una rivista. Allora si fa lunghezza totale di polo uguale lunghezza d'onda da ricevere o da trasmettere per 0,95 diviso 2. La lunghezza quindi dovrà essere, per lo stesso che era di 40 metri, lui 40 per 0,95 diviso 2, metri 19. E 40 metri, noi siamo negli 11 metri, mi pare, così. 0,95? La lunghezza d'onda, cioè la lunghezza del polo si fa, la lunghezza d'onda per 0,95 diviso 2. E mi dà 0,475. Fammi dire 0,475. 11 per 0,95 dovrebbe dare circa 10, quanto cosa vuol dire? No, ma lo devo fare, dimmelo. 11? La 27 deve essere un 11 metri. 11 per 0,95 diviso 2. Dovrebbe dare circa 5 metri. Sì, 5,225. È più o meno 5 metri. Tu cos'hai? 2,75. Ma no, quello lì è un'onda, eh. È un'onda. Questo a 2,75 mezz'onda. E poi c'è la lunghezza della discesa, devi calcolare. Voi quanto l'avete fatta la discesa? Ma tre quanti ore che sia, non lo ricordo, ma l'ho spiegato come l'ho messo. Allora, la lunghezza della discesa va scelta in questa antenna in proporzione alla lunghezza d'onda. Pertanto, per usare la discesa, una lunghezza d'onda di un quarto, se qua ci sono tutte le misure, di un quarto, di un mezzo il valore. Ma la dicevano nel capo? Sì, devo calcolare anche quella, se no non si vede nulla del fondo. Io ho fatto la discesa giusta, non più né meno, perciò ti dirò, è aggiunto un po' di rotto. E poi devi cambiare leggermente se ci metto quando è stata le variabili e poi variare questa lunghezza, tra cui riusciamo a guardare l'altezza. Non lo so, roba, non esatti, non sono esatti veramente. Mi la chiedere un po', mi è l'unica cosa che puoi chiedere a Natalino. Appunto, la tariffa non so che è molto classica le antenne, però mi sembrava troppo corta, voi l'avete fatta troppo corta. Come a T è molto attattiva questa antenna, c'è una parte verticale orizzontale e poi c'è una facendo direttamente alla stanza. Beh, penso proprio di sì. Appunto, quindi devi calcolare anche la discesa, non è solo il verticino che si vede l'orizzontale, anche la discesa deve essere calibrata nella stessa lunghezza d'onda. La calata la fai una misura sballata, non funziona. là, come si chiama? Là, quello più piccolo. Adriano, ciao Antonello. Ti ascolto. Dai, mi ascolti? Un problema. cosa che pochi conoscono questi apparati vecchi che bisogna guardare l'LC. Qualcosa l'hanno inventato il misuratore LC, no? Sembra che sia un opzionale. Ah sì, sono fuori LC, vedi? Oh là, adesso sono dentro LC. Adesso vabbè, i picchetti sono secchi completamente. Perché Antonetti prima si usavano i microfoni col compressore? Perché quegli apparati antichi non avevano il compressore incorporato. Si proveva col compressore nel microfono. Questo va a 7. Io? Stai dicendo a me, Antonio? Sì, vabbè, si è calato un berli, che dici di si è calato? Vediamo se è successo, mi ha attaccato, non è che si è caricata la batteria. Ma poco! Che la chiama dietro? Ciao Gianni, ma poco, avevo messo, e io ho caricato, adesso ho ripreso. Bene, ciao. La porta chiusa. Cosa hai caricato? La macchina, furgone. Ma di soldi? No. Dov'è? Lo conosco anche. Ehi, l'altra rivista a te. nessuno, non dica nessuno che sto portando più in giro. No, no, non lo dica nessuno, come se il tratto sia questo. Ah, è una confusione! Ti ha tirato attaccato il coso, il cerotto. Di avrei tirato la marmellata a FIFA già, che ha fatto giusto giusto il valle sotto al ponte. E ha fatto la attacca addosso. No, una volta ce l'hanno fatto il gol, vedo per il coso qui, non è stato a casa a mangiare. Che poi ho dovuto legare il pantalone sotto la chiesa di cagare. Ma come tu lo conoscete? Sì, che è grande, non lo conosco. Falcone è nato, è entrato nel 35, figurati. Ma la mia cosa è conoscerlo personalmente, dico, ci sembra uscito, ha avuto male modo di uscire, dico. E è andato a pescheria insieme, adesso. E quello che è vero, io lo facevo dare i soldi naturalmente, e poi io pagavo e lo invitava. Allora, una volta ci sono andato una ventina, cioè, prima aveva la macchina, siamo messi d'accordo tutti quanti, io, Silvia, altra Silvia, tutti quanti, il cugino di Antonio Riserva, Marcello, Marco, sono tutti, Roberto Bandito e Marichino Filamburo, poi c'era Antonio Cedrello, la sorella, siamo andati, prima di andare, venite, che vi ho fatto una birra, un caffè anzi, vabbè, andiamo lì, ciao Paletta, io che vi offro il caffè e poi fa no, siete in tanti, ho 4.000 lire, non ve lo posso offrire e non so questo nulla, cioè 4.000 lire tutte le 500 ma già mi hanno fatto una le ho detto poi stiamo a secolo una volta, cioè adesso si fa benzina e ce l'ho difficile. Oh Gianni, ma io una cosa, ma questo che state dicendo di questa persona, e sono fatti accurati o sono delle impressioni? Ma che cosa? Che no, praticamente era malato di testa, capito? Pure di malato c'era la presenza, lui c'era quella della stessa, non è che fosse... Anche se lui diceva di questo... di San Camillo che se l'aveva fatto, raccontava. Sì, ma dico, con donne lui non c'è mai andato. Ma non vai con un capo, con il testo allora. C'è quello che dicevo, ogni matto c'ha la sua, c'è quello che è fissato con la chiesa, che si fa il giro delle chiese la mattina presto, c'è quello che è fissato col pallone, c'è quello che è fissato, poi diciamo la fissazione della stessa. Ma mi dà meno atto, cioè ragiona assolutamente, c'ha anche dei problemi di comprendono, cioè dico, malato di mente, dico, col punto di vista. Allora Robert, ti faccio sentire un giorno, c'è un CD registrato di tutte le sue... Però vedi, il computer te l'ha ascolti, però ti consiglio di farlo da solo perché dice un po' di parolaccio. No, ma quello che voglio dire è ritardato o è solo a questo livello di fatto, a questo tipo di cose? Se è proprio ritardato, nel senso, un discorso non può fare o è proprio matto di tutto? Se è ritardato mentale, dai, praticamente era una cosa che lui diceva... facciamo il gioco della calza. Ah, allora vabbè, poverino, dai, io li considero poverini così. Ma quella mi ha fatto pena, un giorno me l'ho portato in giro. Hai cosa di quella? È venuto con me, ha detto, posso andare allo stereo della macchina? Allora, non ha fatto proprio, c'era un vascone lì alla cantonera, nel 34, e l'ha detto, ho la macchina, e l'ha entrata la barmellina. Cioè, ho detto, ma come è che sì, che ho tutto qua? E me la lavava pulita, non ti diceva nulla, cara. E fatto sta che lui è stato dentro la macchina, come mi sono inchinato, che mi avesse inchinato, ha tenuto per me, ha fatto quello che sta accadendo al letto di lavare. E grazie a tutti, volevo buttarone, anzi, se mai ti volevo buttarone. Poi, lui raccontava sempre di questo tipo che se l'aveva fatto, gli aveva messo la testa nel cesso, a San Camillo, se l'aveva fatto. E poi diceva che aveva avuto un morrone, di bocce, ci faceva vedere le cose. Ah, invece la cosa va proprio in frequenza. E allora? Non si vergognava. Oh, già arriviamo in poco. E poi diceva così, bello, ti amo, che io ti amo, abbiamo fatto la mamma insieme. Vabbè, praticamente non è una persona tutt'altro quello che stai pensando tu, non è una persona normale. No, no, dammelo per immaginare, adesso io pensavo fosse soltanto lì, nel senso della parola, ma poi come state dicendo che c'è anche problemi mentali, per cui è ancora più tragica la situazione. Sono spiegato, non è che sia che io, ha la fissazione nel senso, solo che è la parte sbagliata. Ecco, mi piaceva soprattutto i ragazzi femminili. Quindi Luca tutto deve andare bene. E ma c'è di due tante trovo a pezzi. Guarda, io tutto lo vedo, però la vedo certe persone. Ho passi correnti, se no vedo Lucio. E va, ci sei uscire, che ti stai vergognando, ma in fondo in fondo, la roba, pensierino, pensierino alla cua. Sì, una cosa, vedi come mi la taglia. Inizio. Fate girare. Avanti. No, volevo sapere se avevate finito. No, stiamo iniziando. E a tua nipota Roberta conosce a Paoletto. A Paoletto Paccone? E allora? Sì, e non mi dopo parlare con Muro. Vabbè, dopo ti ho vicino, ma ti vedi litigando, ma ho fritto sì. Sì, via. Oh yeah. E la migliore la Roberta. Comunque se ti mai, quello l'ha riparato e va a te, sì, via. Sì, io ci ho fatto manco a te, non tu, no, Robert. Ma dico, ho fatto una testa, le persone malate, dico, pure lui. No, se ne raccontiamo di quello che facevano. Una volta se sono riusciti, vanno a buttare di notte, se sono riusciti, quello che sono piatto da fantasmi, se ne è scappato sui piedi, toccavano a sedere quando stava correndo. Ma che cazzo, l'ha fatto sempre lui, amici della frequenza. E allora? Oh, facciamo riprendere un Mario che ci dà un po' in pausa. Riprendi Mario? Sì, sto bene, io in pausa ti ascolto, non c'è problema. Davvero, già ti sto ascoltando, andate tranquilli. Ragazzi, non mi hai fatto due antenna. Ui, ui. E Mario, tu conosci tu la? Sì, bene. Dove sta Natali? Mario, era mi disse mi hai fatto due antenna. E qua sono 40 pezzarelli. Così è la vita. Ragazzo, una corda è tirata dalla macchina, io? Bravo. Non mi si decida, Allora, praticamente roba era di quei tipi che è malacchino di energia, dei corti di crude, di tutti i colori. Di tutti i colori, però, me. Quando ho trovato di persona, si fissava le mani. Stava sopra con le mani... Così, le mani unite, no? A Tabumaccio, ma sembrava un bambino di, che posso dire, di 5 anni, di 6 anni. E tu mi hai dici, ma strano che sia lui, dice, tutte queste cose. Però, niente, quando tu dici, Paolo, non ti permettere più, guarda, non sto scherzando, la prossima volta vengo, te le butto alla porta, e poi mi va bene, come rientravo a casa, l'ho fatto io, me. Come se venite attaccare, qua c'è il break, c'era lui. Inizia a prendere a parolacce di tutti i colori. Infatti, siccome lui mi aveva chiesto un chiamo di cognome, e gli ho detto Luca Puglioni, e la zia, perché non sei tu brutto coglione Luca Puglioni, metti a portante, Poi c'è un figlio di puttini, tutti i colori. E nessuno va più da sua forte. È malato, no, lo sa, per carità. E non vuoi che sono la mamma, capito? Quando si faceva... Tu dici, quanto te ne stai facendo a Pole? Quanto ne hai fatto oggi? E lui è 5, 6. Certo, ma anche se c'era una donna, una foto per cui sentiva l'altra donna. Ma capivano che era... che non era... diciamo... sano, là. E la mamma che ti pare? La mamma! Ma è vero, ma è l'unico vero, ma così è. E quando io l'ho conosciuto, era malato, già letto quando l'ho conosciuto, sai come l'ho conosciuto, vabbè? No. Lui mi ha detto, dottore, tu se mi hai detto che sono capito, ti do una panicchia che vado in laterale, via c'è di staccare la sua io. E il padre mi è venuto incontro e mi ha detto, guardi, io mi devo scusare con lui, ma poi non ha bisogno di fare cambiare, il suo mi ce li ha. Se... Se specie che io, nella vita che ho, ho provato a farlo rispondere al telefono, ho trovato con un tempo che gli fa fare il gioco da casa. Figurati, ma magari quindi era una persona tranquilla, non era mancante. Marmarmi. Come? La Marmarmi da Conci, Miccoli. Sì, sì. È un figlio di Miccoli. Ma cos'era, figlio unico questo qua? No, siamo guardati fratelli, i fratelli sono tutti giovani, tre cose. Sono persone come si deve. Io devo uscire su un altro, dai. No, io purtroppo ho avuto questa malattia e volevo affrontare con me. Dice, purtroppo la parecchio per lui è l'unica cosa che mi fa compagnia. Cercate di capirlo, mi ha detto, ah, non è una cosa da capire. E la madre che ti fa? Perché dice che non sfrutano, che è un ragazzo malato, sai, la madre è più protettiva. Ma me, questa persona adesso ha 55-58 anni, è possibile? Penso proprio di sì. Guarda, ne ho 48 io, da più grande di me, da allora, quindi. No, 54 forse no. No, forse 54 no. E allora, un 52. Esatto, quindi era grandetto già diversi anni fa. Sì, sì. Sai, era grandetto per venire a vedere tutto ben vestito, maglietta alla corte, pantaloni di marca, giubbotto di marca, tutto tutto quello tirato, ben tenuto. Ah, non era cosa andato, no? No, no, no, Robbe, tutt'altro. Se tu lo vedi non sembra mai una persona amata. Ma cosa sai, neppure ha combinato qualche altro magari osceno, così così non l'ha mai fatto lui. No, mi hanno fatto, secondo me quella di Schiuma, la partita tra CB. La persona di Schiuma? Schiuma la bala. Ah, ho capito. Poi c'è la fotografia su internet, con lui nel sito. Sono tutte quelle di CB che vedono le conto, il colore. Comunque lo conoscono tutti, è una persona indimenticata. Sì, sì, ha fatto la storia della CD. Qualcosa perlomeno, come si va loro. Tutti quelli che ho sentito, di tutti quelli nuovi entrati, lui, che tutti gli altri, mi arriva sempre presto questa persona. Hai capito? Vieni, se mi fai preoccupare, ha capito il tuo Gesù di Rosa Maria. Attenzione, Paoletto Falcone. Vedi, ciao, Robert. Stiamo rifugiando le vecchie storie. Cosa mi ricordi? Come entrava? Se mi vedo adesso mi vedo Gesù di Rosa Maria, capito? Parlando con un'altra persona, stai parlando lui con la vecchia come l'altra volta. Allora, vista tutta dall'altra parte, quella che c'è dietro la pizzeria è di Paoletto Falcone. Mi sono passato lì davanti fra due minuti qua. Boh, io sapevo la sua parte che non aveva più messo, e che quella lì era di Cosio. Vabbè, però so pure che mi abbiamo informato male. Informato malissimo, Stefano non abita lì, abita da tutt'altra parte, molto distante da lì, quella è l'antenna di Paoletto. Ha detto questo Mario? Questo noi non lo sappiamo, ci sta ascoltando. Lascia pure. Ma la fine che rientra. Vai, viene rotto col microfono per non fare, per non rientrare la madre, però lui ci sta ascoltando e sta meditando. No, ma non è che sta camminando, poco fa stava camminando verso Santa Maria, no, le tue balcone. Come la multa per abbandono la frequenza. Ma Marco, scusa, non ho sentito. strana però. In Sardegna non riusciamo a accompagnare, in continente riusciamo a arrivare. E questa è propagazione. Allora, questa è propagazione. Arriviamo, purtroppo si chiama banda cittadina per quel motivo lì, perché non ha molta gettata. Poi ci sono quei giorni che c'è propagazione, allora riesce ad arrivare dove la propagazione, tutto lì. Sì, allora, sono sotto il 10 al ritorno, che non fare sulle montagne che disturba la... Meglio, lei fate il QRT. Sì, è questa voce sensuale. Antonio il Callo. Ah, e ciao Antonio. Come stai? Sì, adesso seduto. Stavo passando stamattina. Sono preso la casa di un'altra. Ma se c'è stato il capito, non ho ancora capito. Ho fatto l'altro che ho visto che c'è stato il pittore. Ma non ho visto. Sì, io l'ho visto. Non mi guarda di stupro con lui nella televisione. No, quello va al fianco a quelli che abitavano sotto. Roberto Quadro dice che non fa nulla. Non è proprio la roba. Sì, no, no, quattro lire per mettere lo sopra e tutti quanti che lo fanno mettere con il suo visino. Quello ogni 10 giorni si faceva una lastra. Perché c'è come dire la relazione, ma no. Vabbè, è normale. Ma Roberto ha detto di no perché dice che adesso tutto ciò che elettore con radiofrequenza chiama la radiazione, televisori compresi, quindi sta giù di sul tutto. Ma quelli a cristalli liquidi no, vero? Perché vanno nel tubo. Ma vabbè, la sensa è comunque un meno della reazione, tutto ciò che lavora con l'elettore chiama la radiazione, anche il tubo al neon, due tubi al neon sopra la tua testa, praticamente accendi e sono anche quella radiazione. Insomma, siamo circondati. Da campi elettromagnetici. Cioè, se ti rimuovo il campo a scusa, non c'è stato quello visto che ce n'è uno. In via Figa, col palazzo grigio, ne hanno messo uno lì. Sì, esatto. Sono cose che bisogna sapere, magari lo perdiamo due soldi di più al condominio, si lascia andare. Magari hanno anche qualche cosa di buono, però ma cosa qualcosa di buono? Quando avevamo messo il gattaccio di Santa Maria Pisa hanno regalato un telefonino a ogni proprietario di appartamento, a ogni inquilino. Ma se di un paradiso. E allora? Niente, ma non comprendo una massa. Sì, è un bel perché sì, lo prendo la macchina. No, ogni tanto vedo qualcuno, ma non è qualcuno che non sta uscendo di radio. C'è la farfallina, non sta. Ciao Mario, ciao Roberto, ciao Luca. Ciao a tu. Luca sarà stato da un canale all'altro, Roberto, dormendo. È il tuo fratello, no, mio fratello adesso è stato di babbo, fate mercoledì mattina. Vabbè, non è una parte. Sì, non ci ho pensato, perché ce l'ho un laboratorio, non ci ho pensato di imparare uno. Se ne sono 3 o 4, non so se ne sono. Era con me fino a 10-20 minuti fa. Ma magari lo desidero di fare, no? Vabbè, se non riusciamo ad entrare, piace gli altri che avevano il laboratorio, mentre se prendo l'apparecchio, un microfono e parla, se non lo dica. Io non... Guarda, mi scritto anche di testa. Ma ve lo dici, siamo... Io ho detto che c'è questi giorni, magari mi farebbe piacere fare una chiacchierata. Quella di Luca, ci sei? È entrato anche a mezzogiorno. Sì, ma non è entrato, lo so perché era qui a casa. Io dopo mi hanno telefonato e sono venuto uscire. Lui è d'urgenza per andare a controllare un timer. Di non ce l'ha frigo, sono dovuto uscire in fretta e lui è rimasto qui, io gli ho lasciato il cervello e poi prima di tutto chiudi, sai che ci devi fare. KK, infatti quando ti abbiamo chiamato a riprendere, niente, ti ho detto che tu eri uscito per un'emergenza. Beh, cazzo. Stiamo mangiando noi, Mario. Avevo appena mangiato due cose di pasta, mi hanno chiamato e sono venuto a uscire. Per carità, non ti lasciano, ma già mangi poco. E quando vado a pranzare non ti lasciano pranzare manco in pace, per carità. Vabbè, ma quando si bloccano quelle cose lì, Mario, dopo va a mano un sacco di roba. E quindi niente, poi da lì sono andato, dovevo terminare, sto facendo un impianto, una villetta, con testa, poi da lì sono passato un salto a casa per vedere l'idraulico che punto era, poi sono sceso di nuovo giù a comprare i cortecini delle porte, poi sono di nuovo risalito, poi sono andato a finire un'antenna, e da lì ci vanno le torrelle. Poi cappa, ma la marrucola, già più niente. A vero, per carità. Ma da una parte è meglio che ci sia lavoro, però dall'altra almeno nell'ora di pranzo che stai con la famiglia la fattezza come un tempaggio. Allora in caso non succede, ma tutte le malassorti che devono succedere. Un attimo di bianco vado a prendere un bicchiere di birra, va, adesso me lo bevo volentieri. Gatta gatta, vai vai, riprendi il Gianni. Sì, ho detto. Purtroppo scusi, da tutte le parti, meglio che ci sia il lavoro, ma non è brutto. Visto che lui è il tecnico di fiducia, giustamente è normale che lo chiamino, però la gente dovrebbe dire pure, ma chi la gioca che bussa? Chi sa mai rientra da casa mia e la magnende? Alla soglia almeno una mezz'ora per pranzare. Ci sono si era fatta una specie di riunione. Però tutti quanti, bim bum bam, da voi al momento opportuno, tutti hanno girato le spalle, è vero. E invece siamo la vergogna, una provincia come Sassari a essere indietro di Porto Torres e di tanti altri paesi dell'intorno di Sassari. Siamo l'unico posto dove non c'è una sede CB, dove poter fare l'ascolto, dove poterci incontrare e berci una birretta oppure un caffè. E invece niente di tutto questo qui a Sassari, uno manda a far culo. Allora, io ti ho detto, praticamente, sono questa faccia dei nuovi locali e quindi praticamente gli avranno delle stanze e poi gli ho detto se avevamo intenzione che lì ci stavo a fare sia il locale. Poi dopo ci vuole anche il tempo per andare, siamo sempre lì, si tratta di un po' di loro a casa da una cosa del genere, si può poter fare, la difesa di San Gavino possiamo fare. La difesa? Di San Gavino. Ma con la piedi stai parlando? Sì, i pellegrini, che fanno tutti, si trovano praticamente le macchine, si mettono le luci, eccetera, eccetera. Ah, capito, capito. Ho detto nei civili, eh? Più o meno. Io tanti anni fa lo facevo, anche nelle gare automobilistiche, cioè cuglie della Madonnina, le monte di roba, la cavalcata, sì, già. Anche io l'ho fatta. A me il strumento di sicurezza è presente in una cosa nel cammino a piedi, anche io sono buono. E anche io. No, io ero in macchina, la cavalcata la facevo in macchina. Capito, la faccio con un Agostino che aveva una macchina tipo quella della polizia, solo che tu vedi se con la piccola la pedrona 265, non so se ti ricordi quello con la molla grossa grossa, 265 alto, faria la macchina dei carabinieri. Con la stessa macchina, già con la 727 nera però, con l'antenna lì, col mollone grande, quella quando camminavi partiva la cofana davanti e toccava quello di dietro, sempre non durendo, sì. Infatti ci aveva una specie di gancio dove si agganciava quando dovevi correre, perché se ne andava una cosa lui l'aveva messa sopra la ruota lì dietro. Ma che tirante di pulire? L'antenna era in due pezzi, me la ricordo ancora, tutta di metrodesima, si aggiungeva e dopo la piegava arrivava fino dietro e c'era un gancio che si usava tipo la vecchia antenna della radio della 124 Sport Special, no, è Sport, non veramente. Sì, io andavo con lui in macchina, capito? Guidava io parlavo la radio. Poi si parlava dei gruppi, il gruppo di Sirico, poi si pagavano anche. Sì, no, già era una bella cosa, anche ogni tanto di unirsi, solo che non so cosa penso io già, non so se magari il mio pensiero è un pensiero sbagliato, che in queste riunioni nascono sempre degli abbrutti che non finiscono più. Chi la vuole perché ci sono le tubate, perché che tubate una cosa. Infatti. Io dopo nascono sicuramente bisticci, gente che dice la sua e quello che non l'accetta, finché si parla in radio, uno come dice Mario, uno si manda a far culo e ciccia, però quando si fanno questi riunioni così, io mi ricordo allora c'era anche Tonino Cavalzati quando facevamo le riunioni, io vedi gente. Io me li ricordo, me li ricordo. Mi sembra che Tonino ci abbia ancora una panicchia. Tonino aveva, mi sembra, il Saturno, che compiano i più tre, ce l'avrà ancora. E quindi magari può anche entrare un momento all'altro. Sì, c'è questi posti qua, di solito c'è chi dice la sua, l'altro non gli va bene, c'è sempre chi contraria le cose, non tutti sono le stesse idee, quindi si può vedere, se si organizzano manifestazioni c'è anche da guadagnare qualche cosa, quindi si può. Praticamente i soldi che guarda all'inizio li metti per sistemare la stazione in sede e ti farà passare l'ascolto e dopo piano piano si migliora tutto. Vabbè, quello che era America. C'era un sacco di gente, anche Ignazio, che adesso, vabbè, l'ho sentito l'altro giorno, dice, no, alla fine c'è ancora, dice, in campagna, dice, ovviamente quando vedo, dice, te lo do così, lo fai funzionare un po', per scatto, ragazzi, in campagna è mollato. Ma è bello. E allora, sai, anche lui c'è Tornecco, con il camion più due, mi ha pensato, detto, quando vengo, altro dice, te lo do così, lo fai andare un po', perché dice sempre fermo lì buttato dentro la sgabuzzina. Ah, e lui era quello di Piero Drago? Segnato il fratello di Piero, di Piero Drago, un altro Piero, ma che cosa non ho visto? E beh, Piero, che ci divertivamo troppo, aspetta. Sì, io ho le registrazioni di Falcone con Piero Drago, già le sentite. Ma guarda, allora c'è da Ignazio, Piero, Tonino, ogni tanto si facevano anche delle risate, delle cose, adesso buono, ma è diventato un mosso di questa frequenza. Io Tonino avevo fatto una lotteria. Sulla rotta di casa, chi vuole giocare deve portare i soldi, vabbè, via. Io ho preso tutti l'ultimo in arrivo a testa, ho vinto un lineare della lettura di 150. Era bello fare queste cose, cioè prima già si dava a fare queste cose, già non amava, però guarda, io ripeto, da 10 anni a questa parte non ho più visto niente di... Sì, sempre le solite cose già, però una palla, vabbè, prima c'era le cacciate di solo, c'era un sacco di cose che si facevano. Ma sai cosa c'è? Che c'è poca gente, che in pochi spirito non sa le cose da tu. Siamo 4 gatti, in quel momento stiamo iniziando, siamo da un anno, frequento adesso praticamente come se abbiamo iniziato a andare. Sì, vabbè, comunque anche se siamo 4 gatti, comunque siamo 4 gatti che non hanno in gara, tutto lì. Ma no, perché io ho preso quanti studi, come non ero andato a me piace, io ci posso solo ogni sera, quindi mi muovo che è la passione che... Sì, no, non mette in dubbio, non è che sto dicendo, non sto esprimendo la voglia, come voglia di utilizzare l'apparecchio, voglia nel senso di iniziativa, sì, voglio usare l'apparecchio, quattro chiacchiere, però... La frequenza non è come prima era diverso, c'erano più argomenti, vabbè tu direi sì, c'erano anche molte più persone, non lo metto in dubbio, quindi tu saltavi da un canale all'altro e qui come parlavano di favole e là parlavi di ceci, però mi sto accorgendo che comunque le cose stanno andando e più passa il tempo più si stanno smorzando, ormai di quanti sono proiettati verso cose diverse, non diverso dall'apparecchio, non diverso, è diverso nel senso chi c'ha quello, chi c'ha l'altro, chi comunque la banda cittadina l'hanno un po' abbandonata a tutti. Io non ho sentito niente che volevi entrare, che sono gli apparecchi, anche a fare mi hanno detto qualcuno che sta aspettando a cambiare casa e poi ovviamente la casa nuova, perché c'è stata l'altra adesso, inerente, c'è cioè un tecnico questo. Poi c'è lì, No. Non ha più freno Vittorio. Ah no. Ma è arretto, il bellettino l'ha preso. Ah vabbè, stai facendo il cappellino. No, già ce l'hai i capelli, questo è un motociclista puro. No. Ah, super tipo, Giuseppe. Pappa. Giuseppe super tipo, sì, anche che con la Mario nel 2. È vero che era così forte questo? Oh oddio, fate. Vabbè, fa un Galaxy Samurai e niente, qualche altre cosettine, ma non è che era. Che c'erano di quelle moto Red Rose, come si chiama, Custom. C'è un Kawasaki adesso, un Kawasaki nero, l'abbiamo fatto noi, un sacco d'anni fa, se non credo in Belgio di Harley Davidson. Eh sì, Giuseppe Super Pippo, poi assalutalo quando lo vedi, lì a tutto il tempo non ti può essere Tronic. Un abbraccio a quello che ho conosciuto stasera, confermo. Sì, confermo. Non so che io leggo nella mente. Il corpo. Sì, da lui. Non ho mai sentito io, vabbè che lui non durava tanti anni, ha smesso praticamente, forse un tantino, anche un po' di anni prima che iniziassi io, quindi. Considerare anche che molti apparecchi buoni anche categoria di semi professionali tipo 4005 Pluto, come viene in mente l'altro, Lincoln, e anche qualche HF gli ha portati anche coso, ecco, lo scoppiato di usai da Italia, da usato, sì, che prima ci lavorava a Pomponio lì. Ok, quello lì cosa valeva? E allora, quello valeva tutto, da frullatore al televisore, apparecchi CD, microfoni, lineari, tutto quanto valeva, tutto. E allora, prima ci ha lavorato Antonio Pomponio, lì, poi già te lo potrà anche dire lui, io gli avevo comprato un M300 e qualche altra cosettina, non mi ricordo, boh, tipo Rosemary, quelle cose così, carichi fittizi, quelli piccoli, così. Ti parlo però di già del 1995, Antonio, tu, dimmi, io ho conosciuto a Marco Mara, te l'hai conosciuto, che lavorava da lui. Ma io gli ho conosciuto due o tre che lavoravano da lui, però ripeto, non me ne discordo perché è passato tanto tempo, mi ricordo solo esclusivamente di Antonello perché Antonello già lo conoscevo. Era il periodo che mi sembra si era appena trasferito da via Rezzeddu, aveva appena cambiato casa, quindi ti puoi immaginare anche a quanti anni erano. Cioè, ma poi da lontano lavorava l'ingegno Meloni, no? Che adesso è in mare di via San Fulvio, via Principe Cagnolanda. Carletto. Sì. No, Carletto Meloni è stato mio professore, non è che lavorava a Lontari, era, diciamo, lui si interessava di queste cose così, veniva molte volte anche in laboratorio da me, perché lui è un appassionato di barche, a barche, è un personaggio comunque. È molto preparato nell'Alta Fedeltà, era uno dei più preparati a Sassari. Sì, sì, Carletto sì, è molto, io l'ho visto anche da poco, è molto in gamba, è una persona comunque che si è fatto il suo, una gran rottura di base di un uomo, però... Ma quello Lucciolino è quello che lavorava anche la Grisce? No, Carletto non ne ha capelli, ne aveva già pochi 20 anni fa, vediamoci adesso, magro, alto, occhiali. No, non è quello stesso, io ho conosciuto uno che prima lavorava con l'autore, secondo il suo, questa era la natura Grisciacco, era il capello di Vicciolini, la moglie robusta. Ma tu stai dicendo quello che aveva il negozio da Umberto? No, quello che lavorava con Sciopre? Esatto. Basticava molto il lavoratore da noi quello, perché stavo cercando sempre di trovare modo di riaprire l'attività. Però ormai gli aveva bruciato il terreno, gli aveva bruciato il terreno a noi. Come lui vendeva la parecchione? Cosa doveva CD faceva anche altro, vendeva roba del computer per fare. Lui è nato come attrezzature nautiche, tutto ciò che riguarda la nautica, piloni, piloti automatici, ecofrandagli, chiaramente trasmittenti, VHF, e poi c'è stato anche i CB perché allora in Malta tutti quanti avevano il baracchino, quindi il baracchino, le antenne in Rosnet, e di conseguenza tutto quello che è inerente all'attività radiantistica di questo tipo qua. Ma di chi stai parlando, Arturo? Guarda, non me lo ricordo il nome, se mi deluci da qualcuno sì, però non mi viene in mente. Era lì in via Lombetto comunque, sai quel pezzo di cesina che c'è da via Roma che da in via Lombetto, prima di arrivare in via Uriani, proprio di fronte ti veniva. Ciao, così. Esatto, Marco Micchi. Figa, quello vedeva anche, come si chiama, attrezzatura per CB e poi ce l'ha messa a fare anche stazioni radio, FM. Sì, faceva di tutto, antennistica, diciamo, antennistica normale, di TV, faceva un po' di tutto. Non era comunque male, io lo conosco molto bene, lui come persona, poi per il resto non lo conosco perché non ci ho mai frequentato lì. Però come persona mi sono abbastanza preparato, cioè preparato nel senso che le cose le conosce, cioè si sa lettereggiare, poi si è preparato tecnicamente, quello non te lo posso dire perché non ho fatto l'esame. Ma però no, costruivo anche i lineari per FM, ho avuto modo di conoscerlo per quello io. È stato il primo, almeno si vantava di essere il primo, a casa di avere analizzato il spettro. No, questo non lo so, io ho conosciuto che veniva sempre in laboratorio da noi, l'ingegnere, un tipo alto, ricciolino con il capo di Emili, l'ingegnere, non mi ricordo il nome, lui era molto molto preparato per quanto riguarda l'elettronica applicata alle trasmittenti, perché poi l'elettronica la può applicare a qualsiasi tipo di cose. Ma però poi non so che fine abbia fatto, non l'ho più visto questo Adriano. Ma non ne ho idea neanche io, è molto tempo comunque che sono tante persone che non vedo più. Interessante, prima c'era pure cosa, ve lo ricordate? Mario che è il gatto, poi c'era padre Checco che era infermiere, e c'era tanta gente che era in gambo prima me. Allora, Marco Micchi c'aveva pure il malacco. Inizialmente lavorava lì alla vigilanza, vicino alla questura. No, Mario Filigato l'ho conosciuto, lo conosco Mario, perché è praticamente il fratello del marito di mia cugina, e quindi lo conosco bene. Poi chi altro stavo dicendo? Sì, ma c'era un sacco di gente prima, c'era Giovanni 500, tu sai quello è Giovanni 500? Ma sì, a Vuglia. Ma sì, no, non mi viene niente. Giovanni 500 era quello che aveva il sicuro di faccia. Che modulava lì da via Montello, mi sembra che era via D'Annunzio, c'era un sacco di gente già, un bel. Ciao, qui a Vuglia. Giovanni 500 lì che modulava con la macchina di mano. Poi alla fine si aveva comprato una stazione bar della Fayette, tipo di Saturnenco, che l'aveva venduto a San Velio. Poi si aveva, c'era un salario, l'avevo riparato io, se l'aveva subito venduto, l'aveva dato la sua Kimbo. Io. Comunque lui, io mi ricordo che scendeva in cima del plato, si faceva dare una tabattina, quando si scaricava, gli dava la carta di comunque dal monte modulavano tante persone, anche dal centro storico, ma nel centro storico c'era Antonio Gemelli che modulava lui, la sorella Fiordaliso, un altro ancora Giusi, dopo c'era un sacco, comunque un malinconio di niente. Vabbè, i tutti sono cambiati, non tutti non piace più, oppure tante volte non si sposa e il coniuge non vuole. Vabbè. Nel monte c'era Cinzia, Valentina, poi c'era Paolina che era dalle parti di via Napoli, e c'era un sacco di gente. Conosciamo di gente, ma c'è anche un po' di Paolino prima. Sì, vabbè, ma il casino si fuori già. Se sei controllati casino non c'è, ma se c'è gente e ti piace parlare al baracchino, a me mi sarebbe piaciuto io, molte volte spegnevo le strade, tanto la mattina, molte volte facevo spegnendo, non facendo meno luce uscendo. Sì, vabbè, ma io mi ricordo che prima ci sono una faccia a guardare, Antonio se ne ricordi che giocavamo a pallone. Antonio è morto. Sì, si trovava a guardare la faccia e giocavamo a pallone. Come tutte queste antenne che ci sono nel Lunesole, è tutto pieno, di chi erano? Cosa? Nella zona su, del Lunesole, vicino alla Quellotto, tutta questa zona anche qui, è tutto pieno di antenne, addirittura ne ho visto un paio nuove. Non ci vuole che non trasmette nessuno da lì, ma ce ne sono almeno 6 o 7. Sì, ce ne sono tante, da lì modulava Daniele Manove e fratello, poi c'era Fabio Master, c'era un sacco di persone lì, con la zona lì tua, vabbè, lì, limitrofa, diciamo, non è che proprio lì, però lì intorno a te c'era Roberto Bertolina e c'erano persone. Sì, molti ce n'erano prima. E tu agisci, te lo ricordi? Fabio Masse sta lavorando ad Alghero, sta facendo il condizionamento, l'impianto di condizionamento, l'ho visto da poco. Poi chi è che ho visto? Danone era sempre a Firenze, che stava, vabbè, allora la Firenze che stava studiando architettura, adesso si sarà lavorato, penso, dopo 20 anni, e stava lavorando sicuramente lì. Daniele, il fratello, non mi ricordo cosa stava facendo, l'ho visto anche lì da poco, ma l'ha letto, e un sacco di gente comunque. avanti, che è rimasto? Tutti i giorni, abbiamo fatto come fa la cosa. Ma perché non andate a dormire? Io mi domando e dico cosa ci state a fare qua in radio. Stavo ricordando i vecchi nominati di Muscolo. Ciao, ciao, ciao a tutti. Oggi è revival. Non so. Oggi è revival. Revival. Non so cosa significa revival, è Muscolo. Ascolta, capito, ti parlo più a me, brevi. Revival significa ritornare al passato, no? Una specie di riassunto. Remember. Davvero. Ah sì, remember. Come cazzo era? Revival, remember. Se te le metti nel pavimento ghiacciato, almeno ci ti rompi. Ma già, preferisce a Bustolo, che gli sia stato di Falcone. Sì, ma infatti, guarda, non vi offendete, vi ho sentito parlare di queste cose, me ne sono andato, sinceramente, mi sono andato in cucina e ho fatto altro. Sono andato in cucina per un persone che ha chiamato, perciò, niente, adesso non parlo male di te. Come la faccio come rientra? Se scopro che siamo in qualcosa rientra. Mi sa che lo siamo, me lo so da oggi, non sarà male, ma quello che mi trova mezzo benzinato lo chiamo. No, ma tanto forse ci risponderà lui, però poi il telefono viene preso subito dopo dal maresciallo e quindi ci c'è. Ma quando siamo da lui, io la fermo la telefono in mezzo a strada. Ti do un portatile con le batterie cariche, di parlare ci sta poi a mettere la portatile. Due o tre volte te ne trovo la GBC con qualche ragazzino nuovo comprando il microfono amplificato, caro. Ascolta, dimmi una cosa, ma quanto ce l'ha? Fino mio bello. Un giorno che sei libero che mi ammazzi, ma perché io guarda, se non mi prendi così non mi prendi male. Lo so, cazzo, ma è un giorno che sono libero, di sabato, basta. E vabbè, ci andiamo di sabato. No, questo sabato no. Pisanti. Guardi, credi, me ne dimentico perché. Scusa, il telefono che sta andando mi deviano. Guarda, oggi, credimi, è stata una giornata, non ho avuto durato a pensare, guarda. Anche se ho guscioso. Vabbè, tu almeno lavori tutta la giornata, perché io lavoravo solo la sera quando uscivo dal cantiere e lo sabato piena. No, io non è che sono venuta la giornata per me, no. Io stavo facendo il lavoro mio. Però nel frattempo poi, quando terminavo la cosa, sono dovuto andare a prendere i coprifili, portarli su a casa, poi sono sceso giù in campagna, ho fatto un altro viaggio di pavimenti, infatti l'ho portato via quasi tutti. Io addirittura c'è qualche frato, se ne ha caricato, dice se ti scappa una lacca. Tutto me lo pigliavo da bello, sì, cioè. Beh, te l'ho detto, io non mi fido, quando non sono cose mie non mi fido. Vabbè, ragazzi, dai. Sono andato a salutarti, mi ha fatto piacere proprio trombellando, perché anche io uso soffrato. Ehi, ciao Tina, Tiomi, insomma ne vado a letto. Ciao Tina, buonanotte, ciao anche a, come si chiama, a Gianni, che stamattina non lo so costare, ma abbiamo anche salutato per vergogna. Ciao Gianni, buonanotte. Ciao Mario, buonanotte anche a te. Ciao Roberto, buonanotte pure a te. Buona giornata a tutti, ciao anche a Claudio se sta ancora ascoltando, tante cose, tutti gli ascoltoni e ciao a tutti. Babbo, là, ciao ciao, buonanotte a tutti, divertitevela, scrivete Mario. Ciao Muscolo, ciao a tu, buon QRP, buon 144, riscontrato alle prossime. Salutiamo anche a Gianni perché anche io chiudo e me ne vado a letto. Ciao Roberto, Quadrato, ciao Claudio se ti hanno ascolto e a tutti gli ascoltoni, dai. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Devo dare il capolino, non rimandare giù, allora ciao Tino, ciao Antonio, ciao Gianni, ciao Mario e a tutti quelli che stanno ascoltando. Alle prossime a tutti, ciao ciao. Vabbè, domani si lavora, non è che si gioca, così che bisogna avere anche un paio d'ore di riposo. Ok, ciao ciao. Alle prossime a te, ciao ciao.